Mary non se lo fece dire due volte. Si avviò di corsa verso la porta e sparì sotto la cortina di edera a prendere la merenda. Mentre camminava per il viale, pensava: deve essere stato proprio qualcosa di magico a far arrivare il pettirosso proprio in quel momento. Io non so, a volte succedono delle cose così strane. Io non so spiegarmele. La Yah parlava sempre di magia. Parlava di incantesimi buoni o cattivi. Io non so, alle volte mi sembra di sentire delle forze così buone intorno a me che mi aiutano e mi proteggono. Per esempio, poco fa, quando Colin ha scoperto il ramo che si è rotto e ha provocato la morte della sua mamma, io ho sentito qualcosa nel mio cuore, come se mi venisse spontaneo chiedere aiuto a lei, anche se è morta, per non far soffrire suo figlio, per aiutarmi. Ed è arrivato il pettirosso. Colin si è distratto, ha chiesto la merenda. Si vede che anche se non è più qui, la sua mamma continua a vedere il suo bambino, lo protegge. Forse questa si può chiamare magia buona. La chiamo magia perché non so un altro nome. Non so cos'è, ma è la stessa che fa nascere i fiori, che ha fatto cambiare l'espressione al viso di Colin. Se mi ricordo quel suo viso mentre gridava, piangeva e tirava pugni al cuscino, invece quello di oggi. Ma non capisco bene cos'è, ma c'è un incantesimo grande intorno a noi, sono sicura. Marta fu felice di preparare la merenda e tutto si svolse come Colin aveva ordinato. Quando Deacon tornò con il paniere, Mary stese la tovaglietta che c'era insieme alle provviste sull'erba e tirò fuori pane, burro, marmellata, miele, biscotti. E anche una torta, un grosso termos a forma di brocca e le tazze nelle quali versò il tè. Mangiarono con molto appetito e ci furono anche briciole per le formiche e per qualche passerotto. Una fetta di torta per nocino e guscio. Fuli prese invece una mezza fetta di toast imburrato, la portò in un angolo nascosto, la voltò, la rivoltò, la esaminò, fece le sue osservazioni, poi decise di ingoiarla allegramente in un boccone. Il pomeriggio volgeva al termine. Il sole stava tramontando, le api stavano tornando all'alveare e gli uccelli diradavano i loro voli. Deacon e Mary erano seduti sull'erba, i resti della merenda ben accomodati nel paniere, e Colin stava sdraiato sui cuscini, i riccioli spinti all'indietro e non ricadenti sulla fronte. Così aveva l'aspetto di un ragazzo un po' gracile, sì, ma di un ragazzo, non di una figurina uscita per sbaglio da un libro. Vorrei che questo pomeriggio non finisse mai, disse infine, ma tornerò qui domani e domani l'altro e domani ancora. Ti è piaciuto allora stare all'aria aperta? Chiese Mary. Oh, tantissimo. Oggi ho visto la primavera. Voglio conoscere tutte le stagioni dell'anno. Voglio seguire la vita delle piante nel nostro giardino, vedere come si sviluppano, come crescono e voglio crescere anch'io, diventare forte anch'io. Questo sì che si chiama parlare giusto, approvò Deacon. Colin, noi vogliamo vederti presto camminare e zappare nel giardino come facciamo noi. Colin divenne di un colpo tutto rosso in viso. Camminare io? Zappare? Come potrei mai? Deacon gli rivolse uno sguardo pieno di delicatezza. Né lui né Mary sapevano esattamente le condizioni di salute delle gambe di Colin. Non l'avevano mai visto in piedi. Avevano solo osservato che le gambine erano molto magre. Ma certo, rispose tuttavia coraggiosamente Deacon. Certo che potrai farlo se vorrai. Guarda, hai le gambe come tutti gli altri, no? Mary trattenne il respiro in attesa della risposta di Colin. Sì, le gambe le ho, disse infine il ragazzo, ma sono così magre e deboli che non mi sorreggono. Le rare volte che ho provato a reggermi in piedi si sono messe a tremare così forte che ho dovuto sedermi per non cadere a terra. Ho paura di riprovarci. Mary e Deacon si scambiarono uno sguardo d'intesa. Quando deciderai di non avere più paura, vedrai se non ti reggeranno, esclamò Deacon con una nuova allegria nella voce, e vedrai che non ci vorrà molto per deciderti. Lo credi davvero? Interrogò Colin, la schiena appoggiata sui cuscini, il viso pensoso rivolto verso il cielo. Ci furono alcuni minuti di silenzio. Il sole era quasi sparito all'orizzonte, era quell'ora dell'Angelus nella quale tutto sembra raccogliersi prima del riposo notturno. I tre ragazzi avevano avuto un pomeriggio molto impegnato e pieno di novità, e ed ora godevano quel riposo sereno assieme a tutte le altre creature. Fuli si era appollaiato sul ramo basso di un albero, aveva sollevato una zampina e abbassate le grigie palpebre sugli occhi assonnati. Mary pensava che fra un attimo o due sarebbe piombata in un sonno profondo e, chissà, avrebbe anche russato. In quella quiete ovattata rimbombò improvvisamente, come un tuono, la voce allarmata di Colin. «E quell'uomo chi è?» Mary e Deacon balzarono in piedi. «Quale uomo?» gridarono ad una voce. Colin segnò con il dito sopra il muro di cinta. «Guardate!» bisbigliò concitato. «Guardate là!» Mary e Deacon sollevarono lo sguardo e sulla sommità del muro i loro occhi videro la faccia indignata e furibonda di Ben Weatherstaff. Il vecchio stava su una scala pioli appoggiata al muro dalla parte esterna e mostrava i pugni a Mary, gridando: «Ringrazia Dio che sono scapolo e non sei mia figlia! Se no ti arrangerai per le feste! Quanti scapaccioni ti meriteresti!» Salì ancora un gradino, con aria drammatica, come se avesse l'intenzione di fare un salto giù dal muro e venire ad afferrare la ragazzina. Ma Mary non era per niente impressionata. Mosse alcuni passi verso di lui, pronta ad affrontarlo, pur pensando improbabile che Ben saltasse giù davvero. «Mi sei sempre stata sulle scatole!» continuò lui, agitando ancora i pugni. «La prima volta che ti vidi, pensai, quella faccia di ricottina striminzita, sempre pronta a fare domande e a cacciare il naso negli affari non suoi, mi piace proprio poco!» Non so come ho fatto a parlarti dopo quella volta, se non fosse stato per quell'accidente del pettirosso. Ben Weatherstaff, lo interruppe Mary, ripigliando fiato dopo i primi attimi di sorpresa e tirando fuori una vocina chiara e squillante. È stato proprio il pettirosso a insegnarmi la strada. Allora parve davvero che l'uomo sempre più infuriato volesse gettarsi a capofitto per picchiare quella ragazzina che gli teneva testa senza paura. «Sei proprio una piccola strega!» urlò. «Dar la colpa a un povero uccellino delle tue cattiverie! Va bene che lui è uno sfacciato capace di tutto, ma dire addirittura che ti ha insegnato la strada! Via!» Era davvero arrabbiato, ma poi la curiosità fu più forte della rabbia. «Ma come hai fatto a entrare? Vorrei proprio saperlo!» «È stato il pettirosso!» ripeté ostinatamente Mary. «L'ha fatto senza saperlo, ma è stato lui!» Non posso spiegartelo bene finché starai là sopra a minacciarmi con i tuoi pugni. A questo punto Ben smise improvvisamente il suo atteggiamento bellicoso e la sua faccia cambiò completamente espressione perché vide qualcosa muoversi alle spalle di Mary e avanzare verso di lui provenendo da sotto il susino. Colin, che aveva sul principio ascoltato stupito e sorpreso quel torrente di parole che usciva dalla bocca del giardiniere, si era ripreso e aveva ordinato imperiosamente a Deacon: «Spingi subito la mia carrozzella là, presto! Portami più vicino che puoi al muro e fermati in modo che io sia proprio di fronte a Ben!» Così, vedendo avanzare quei due ragazzi, il vecchio era rimasto a sua volta sorpreso e senza parole, perché credeva che ci fosse solo Mary nel giardino. Colin sedeva sulla sua poltrona a rotelle, con i suoi cuscini di tessuti lussuosi e il suo plaid di cashmere, e sembrava proprio un rajah, con quel suo sguardo fiammeggiante nei grandi occhi grigi, velati dalle lunghe ciglia nere, e la mano destra alzata verso l'intruso. «Sai chi sono io?» chiese rivolto a Ben. Il vecchio lo guardava senza trovare la voce per rispondere. I suoi occhi arrossati lo fissavano come se vedessero un'apparizione. Guardava e guardava e sentiva un groppo alla gola e non riusciva a dire niente. «Sai chi sono io?» ripeté Colin ancora più imperiosamente. «Rispondi!» Ben Weatherstaff sollevò la sua mano nodosa e se la passò sul viso e finalmente riuscì a dire, con una strana voce incrinata dall'emozione: «Chi sei? Certo che lo so. Mi sembra di vedere tua madre guardarmi attraverso i tuoi occhi. Non so come tu abbia fatto ad arrivare sin qui, ma so di sicuro che non puoi essere altro che il povero storpio.» A quelle parole fu Colin a infuriarsi. Si drizzò a sedere, dimenticando la sua schiena e le sue paure. «Non sono uno storpio! Non sono il povero storpio!» «Ha ragione!» gridò Mary indignatissima. «Non è storpio per niente. Ho controllato io stessa. La sua spina dorsale non ha neanche un bitorzolino così.» Ben si passò di nuovo la mano sul viso e fissò gli occhi sul viso di Colin, come se non potesse smettere di guardarlo. Gli tremava la mano, gli tremava la bocca, gli tremava la voce. Era un povero vecchio, era ignorante e senza tatto. Ripeteva cose sentite dire, non aveva avuto la minima intenzione di offendere il figlio della sua adorata, Mrs. Craven. Vuol dire che non sei gobbo? Chiese con voce roca. No, non sono gobbo, gridò Colin. Vuol dire che non hai le gambe deformi? Insisté il vecchio con voce sempre più tremula. Era troppo. La forza che Colin metteva di solito per urlare durante le sue crisi venne ora incanalata verso un'altra direzione. Nessuno aveva mai osato parlare in termini simili in sua presenza. Sentire ora la voce di Ben pronunciare quelle parole, storpio, gobbo, deforme, era più di quanto il Raja potesse sopportare. La rabbia e l'orgoglio ferito gli fecero dimenticare tutto e gli dettero una forza che non aveva mai avuto prima, una forza quasi soprannaturale. Vieni qui, gridò a Deacon, cominciando a buttare via il plaid e a liberare le gambe dalle altre coperte. Vieni qui, subito, immediatamente. Deacon fu vicino a lui in un secondo. Mary tratteneva il respiro, sperando e augurandosi che tutto finisse bene. Può farlo, può farlo, può farlo, ripeteva con convinzione, cercando di trasmettere quella forza di volontà al cugino. Ci fu un momento di confusione. Le coperte furono gettate sull'erba. Deacon sostenne Colin con il suo braccio, le gambine magre si sporsero fuori dal sostegno della carrozzella e i piedi, piccoli e sottili nelle loro babbucce di velluto, poggiarono sull'erba. Colin era in piedi, dritto come un fuso, e sembrava stranamente alto, così sottile com'era, con la testa gettata all'indietro in atto di sfida e quegli strani occhi grigi che mandavano fiamme. Guardami! Urlò con rabbia Ben. Guardami dunque, ti ordino di guardarmi. È dritto come me, affermò Deacon di rinforzo. La reazione di Ben sorprese Mary. Il vecchio era rimasto a guardare la scena senza fiatare, poi aveva ripetutamente cercato di ricacciare indietro le lacrime e infine le aveva invece lasciate scorrere giù, copiose, sulla sua faccia bruciata dal sole. Quante bugie racconta la gente, aveva poi mormorato, stringendo fra loro le mani. Sei sottile come un giunco e bianco come un fantasma, ma non sei gobbo per niente, non sei storpio, hai le gambe dritte, che Dio ti benedica. Deacon lo sorreggeva con forza, ma Colin non dava segno di vacillare. Rimase fermo sui suoi piedi, fissando intensamente Ben. Io sono quello che comanda qui, quando mio padre non c'è. Tu lavori per me e devi eseguire i miei ordini. Non ti arrischiare a dire una sola parola di quello che hai visto oggi. Scendi da quella scala e vai nel sentiero dove c'è il muro con l'edera e la porta del giardino. Mary ti aspetterà nel viale e ti farà entrare. Voglio parlarti. Non eri previsto nei nostri piani, ma già che ci sei entrato, devi ora venire a far parte del nostro segreto. Spicciati! Il vecchio viso rugoso di Ben era ancora umido di lacrime. I suoi occhi non riuscivano a staccarsi dalla figuretta di Colin dritto in piedi nel prato. Ragazzo mio, mormorò commosso, che Dio ti benedica! Poi, come se improvvisamente si ricordasse della situazione reale delle cose, ed uscisse da un attimo di sogno, si toccò il berretto della sua uniforme di giardiniere e disse rispettosamente: Sì, signore, va bene, signore. E cominciò a scendere i pioli della scala per ubbidire all'ordine ricevuto. Capitolo 22. La testa di Ben era sparita dall'alto del muro e Colin disse a Mary: Vagli incontro. Mary volò sul prato e sparì oltre la porta nascosta sotto l'edera. Deacon guardava Colin con occhi attenti, vedeva che c'erano delle macchie rosse sulle sue guance, ma il ragazzo sembrava sicuro di sé e non dava segni di stanchezza o di malessere. Posso stare in piedi? Affermò guardando Deacon fisso negli occhi. L'avevo detto io che bastava decidere di non aver più paura, rispose Deacon. Sei stato bravo a decidere di farlo. Sì. Proprio deciso così. Poi, rivolgendosi al compagno e ripensando a qualcosa che Mary gli aveva detto, Ma dimmi, per caso tu hai fatto una magia per me? La bocca di Deacon si allargò a fetta d'anguria da un'orecchia all'altra. Oh, se qualcuno qui ha fatto una magia sei stato tu. Hai trovato la forza di vincere una cosa brutta come la paura per farne venire fuori una bella. Magia, incantesimi, guarda, questo è un incantesimo, disse poi toccando con una punta del suo grosso scarpone un gruppo di crocus cresciuti sul prato. Colin si chinò a guardarli. Hai ragione, disse. Non ci potrebbe essere incantesimo più grande di quello che ci fa vivere, che fa sbocciare i fiori, che rinnova la vita in primavera. Ma ora, senti, voglio provare a stare in piedi finché Ben sarà qui. Avviciniamoci all'albero, se mi sentirò stanco potrò appoggiarmi. Forse mi verrà voglia di sedermi e lo farò allora, ma per adesso voglio restare in piedi. Prendi una coperta dalla carrozzella. Si diresse verso l'albero. Deacon lo sosteneva con il suo braccio robusto, ma lui era sufficientemente fermo sulle gambe e quando giunse vicino al tronco non ci si appoggiò, ma rimase lì accanto, dritto sulla personcina sottile. Ben entrò dalla porta e assieme a Mary cominciò a camminare verso i due ragazzi. Non poteva staccare gli occhi da Colin e sul viso gli si leggeva un'emozione profonda. Ma cosa stai borbottando adesso? Non hai finito con le tue storie? Ho capito, disse rivolto alla bambina che gli camminava a fianco e lo distraeva con quel suo mormorio. Mary non gli rispose, stava ripetendo: puoi farlo, ce l'hai fatta ad alzarti, ora puoi farcela restare in piedi, puoi farcela, puoi, puoi. Continuava a ripetere quell'esortazione a Colin perché voleva aiutarlo, mandandogli a sorreggerlo anche la sua forza di volontà. Voleva che ce la facesse a restare in piedi davanti a Ben. E Colin ce la faceva. Neppure Mary poteva staccare gli occhi da lui e lo trovava bellissimo. Anche se così magrolino e gracile. Guardami Ben, vedi che non sono gobbo, che non ho le gambe deformi? Il vecchio non era ancora riuscito a superare la sorpresa e l'emozione di quell'incontro, ma stava riprendendo un po' di coraggio e tornava a essere quello di sempre, perciò se ne uscì con questa frase: No, per la miseria, non sei uno storpio. Però allora spiegami perché ti sei nascosto per tanto tempo e hai lasciato che la gente dicesse di te che eri sciancato e mezzo tonto. Mezzo tonto? Ripeté Colin arrabbiatissimo. Mezzo tonto? Dimmi chi ha detto una cosa simile. Oh, tanti l'hanno detto, è una favola che gira, sai, di somari ce n'è in giro. Sentono ragliare. Non si preoccupano di vedere se è un raglio giusto o sbagliato. Ragliano anche loro e si fanno ascoltare da altri somari che a loro volta ragliano e così vanno in giro le bugie. Ognuno ce ne aggiunge un po'. Ma anche tu, perché ti sei rintanato così? Tutti dicevano che dovevo morire da un momento all'altro. Ora so che non è vero, ma ci ho creduto per molto tempo. Il tono era così deciso, fermo e sicuro che Ben guardò Colin due volte dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa. No, perbacco. Esclamò infine: Non è vero che puoi morire da un momento all'altro. L'ho visto quando hai messo giù le gambe dalla carrozzella con quella decisione. Sei un tizio che ha del fegato, sei deciso nelle tue cose e se hai deciso di vivere, ce la farai. Poi, con un sorriso, propose: E ora non vuoi sederti un po' su quella coperta e darmi quegli ordini che dicevi? C'era un misto di ruvida tenerezza e di profonda comprensione nel modo di fare di quel vecchio. Mary, quando gli era andata incontro nel viale, gli aveva raccontato in 4 e 4/8 come aveva fatto entrare nel giardino e poi aveva occupato tutto il resto del tempo a dirgli che per amor di Dio non parlasse di malattie e di morte con Colin. Secondo lei c'era stato un gran miglioramento nello stato di salute del cugino da quando aveva cominciato a fare progetti sul giardino segreto. Oggi era il primo giorno che ce l'avevano portato e il risultato aveva superato ogni aspettativa, dunque non si doveva sciupare questa situazione. Il Raja era seduto sulla coperta e tutti stavano intorno a lui. Che lavoro svolgi nei giardini? Qual è esattamente il tuo incarico, Weatherstaff? Chiese. Oh, non ho un incarico specifico, rispose il vecchio. Faccio quello che mi dicono via via di fare. Mi tengono qui per favore, sono già vecchio, ma ho servito lei quando era qui. Lei chi? Tua madre. Mia madre? Chiese Colin guardandolo negli occhi. Eri il suo giardiniere? Allora questo era il suo giardino? Sì, annuì Ben rispondendo al suo sguardo. Lo amava molto. L'aveva voluto lei così, con questi berceau, questi rosai, questi vasi, questi fiori. Adesso è il mio giardino. Lo amo molto anch'io, mi piace. Ci verrò tutti i giorni. Ma deve restare un segreto. Quello che voglio da te è che tu faccia in modo che nessuno sappia che noi veniamo qui. Deacon e Mary sono venuti qui e lo hanno fatto rivivere. Penso che chiederemo il tuo aiuto qualche volta, però devi venirci quando nessuno ti vede. Il viso del giardiniere fu tutto un rincorrersi di rughe. Gli occhi brillarono come due pezzettini di specchio al sole. L'ho già fatto diverse altre volte e nessuno l'ha mai saputo, disse. Tu sei già entrato qui? Quando? Interrogò Colin. Oh, l'ultima volta è stato 2 anni fa. Ma non capisco come se la porta era chiusa, la chiave sottoterra. Ma io non sono mica tonto. Sì, la porta era chiusa e allora, se non potevo entrare dalla porta, potevo appoggiare una scala al muro, salirci in cima, rimettere la scala dall'altra parte e scendere dentro, no? Purtroppo i reumatismi non me lo lasciano più fare da 2 anni. Ah, ecco chi era stato a potare i rosai, esclamò Deacon. L'avevo detto che non sembravano abbandonati da 10 anni. Lei un giorno mi disse, Ben, se io dovrò assentarmi per un viaggio o altro, tu curerai le mie rose, vero? Non le lascerai morire. E io le promisi che avrei fatto sempre il possibile, così quando lei se ne andò, io pensai che non potevo lasciar morire i suoi fiori. Avevano chiuso la porta, proibito di entrare, ma nessuno aveva proibito di scavalcare il muro. Così sono venuto ogni anno a fare l'indispensabile in primavera e in autunno, ma ora, da 2 anni, i reumatismi. Perfetto, esclamò Colin. Tu sai davvero mantenere un segreto. Ci si può fidare ciecamente di te. Oh, certo, signore, e sarà molto più facile entrare qui dentro passando dalla porta. Sull'erba, vicino all'albero, c'era la zappetta di Mary. Colin la prese in mano e si alzò in piedi. Aveva una strana espressione sul viso. Cominciò a smuovere la terra. Il suo braccio era debole e così le gambe. Tuttavia, riuscì a piantare la zappa nella terra e a sollevare qualche zolla. Mary non stava in sé dalla gioia. Bravo, bravo, ce l'hai fatta, vedi? Ce l'hai fatta perché hai voluto farcela. Deacon era commosso e così pure Ben. Dopo aver dato 3 o 4 colpi, Colin si rivolse a Deacon parlando in dialetto. Così mi avevi detto oggi che secondo te potevo camminare e zappare. Ho pensato che tu lo dicessi solo per farmi piacere, invece. Ben propose: Che ne diresti di mettere in terra una pianta di rose per festeggiare questo giorno e per tenerla come ricordo? Vuoi che vada nella serra a prendere un vaso con un germoglio? Oh, sì, per favore, Ben, fai presto. Il vecchio se ne andò quasi di corsa. I suoi reumatismi sembravano guariti. Sparì sotto i rami di edera che nascondevano la porta. Deacon prese la sua vanga e fece un po' più larga e più profonda la buca che Colin aveva cominciato a scavare. Mary andò a procurarsi un annaffiatoio. Colin desiderava finire l'operazione prima che il sole sparisse del tutto e ce la fece. Ben ritornò, si inginocchiò accanto alla buca, ruppe il vaso, ne estrasse la pianta, la porse al ragazzo. Mettila tu, come fa un re quando si reca in un posto nuovo. Colin era molto emozionato. Le sue mani tremavano un po'. Una volta che la piantina fu a dimora, tutti aiutarono a riempire la fossa di terra. Fuli era volato giù dall'albero e approvava. Nocino e guscio squittivano rincorrendosi su di un ciliegio. Colin disse: Deacon, aiutami ancora un po', per favore. Vorrei restare in piedi per salutare il sole fino a quando non se ne andrà l'ultimo raggio. Così rimase dritto nella luce dorata finché non sopravvennero le ombre azzurre del crepuscolo e l'incantesimo o qualche altra forza alla quale loro non sapevano ancora dare un nome era lì, intorno a loro, dentro di loro.